Quello che abbiamo chiesto è che lui ha lavorato a questo romanzo per 2 anni, lui ha puntualizzato in effetti 1 anno e mezzo, e gli abbiamo chiesto che tipo di lavoro ha fatto in questi anni e con quale tipo di comunità si è confrontato. Lui ci ha detto che si è confrontato soprattutto con persone che hanno fatto parte di gang nel passato, in particolare con persone di origine latina, ma anche con infermieri e con persone che hanno fatto graffiti per anni e anche con molti pompieri. Questi sono i tipi principali di gruppi. Quello che ci ha detto è che appunto noi abbiamo chiesto nella rivolta di Los Angeles, che è un po' il tema principale del libro, lui dà un'immagine meno politica della rivolta e invece si concentra di più anche sullo scenario che dipinge come molto più complesso. E infatti lui ci ha detto che ha trovato molto affascinante che i media dipingevano uno scenario di bianchi e neri, tutto molto semplice, quindi un malcontento di origine politica, soprattutto con gli ufficiali di polizia. Quindi in qualche modo uno scenario politicamente semplice, ma invece lui ha notato, ed era in qualche modo, lui dice, anche intuitivo, che una città con 11 milioni di abitanti come Los Angeles non può avere una situazione così semplice, e quindi lui nel suo romanzo ha voluto non soltanto umanizzare i membri delle gang che hanno pure partecipato a questa rivolta, ma anche far vedere i lati, come dire, in qualche modo meno politici, come anche durante la rivolta ci sono stati ad esempio anche tentativi di ricercare vendette private o no, che nulla avevano a che vedere con la tensione tra i gruppi, le minoranze e insomma tutto lo scenario che appunto che ha fatto la rivolta e la sua tensione con gli apparati di polizia. Well, I think at this point a partire dalla dichiarazione di uno dei personaggi del romanzo, che è Lil Creeper, che dice ci saranno altri scontri nel 2022 o forse anche prima. Ora sono passati 25 anni e le tensioni razziali sono ancora molto forti, come abbiamo visto con varie campagne, e abbiamo chiesto la sua opinione al riguardo, e quello che ha detto è che ovviamente il potenziale per una nuova rivolta, la miccia, perché qualcosa bruci, è ancora lì, e la miccia è l'educazione assolutamente sottofinanziata, la povertà, la disoccupazione, la mancanza di alloggi, questi creano quella che lui ha definito una opportunità per una rivolta. E la nuova elezione crea uno scenario che lui definisce nuovo, dice non avevo nemmeno mai pensato a questo, si riferisce ovviamente all'elezione di Trump e alle sue dichiarazioni sulle deportazioni, dato che Trump ha dichiarato con leggerezza che avrebbe voluto deportare milioni di persone. Cita anche la dichiarazione del capo della polizia di Los Angeles, Charlie Beck, che dice io non farò nulla per quello, e dice questo è una cosa senza precedenti, perché non si era mai visto che a Los Angeles, che in qualche modo era considerato un porto sicuro, si parlasse con così tanta leggerezza della deportazione di persone. Dunque, quello che dice è in effetti un po', non esattamente in contrapposizione, ma comunque sminuisce un po' il ruolo della rivolta del 92 sull'origine del gangsta rap. Lui dice che il gangsta rap esisteva anche prima, in particolare nello stato di Washington, ma è vero che la rivolta di Los Angeles ha aiutato a diffonderne, a renderlo più popolare, semplicemente perché in qualche modo dopo quella rivolta c'era più da aver paura. Quanto invece all'ambito, come dire, in qualche modo opposto, cioè in cui gli avevamo chiesto quanto della la rivolta del 92 ha avuto un effetto sulla militarizzazione della polizia e su in generale altri dispositivi con cui la polizia ha molto aumentato la sua operatività, diciamo, lui dice che secondo lui la militarizzazione in particolare non è molto riconducibile al 92. Nel 92 c'era una forte differenza tra la polizia locale e la National Guard, la Guardia Nazionale, che era formata anche dai riservisti. E la National Guard era quella più usata in casi di emergenza, e però appunto era in qualche modo un corpo speciale Si pensa che nel 92 ci si trovò con i carri armati per le strade. E ora, in qualche modo, invece, le polizie locali si sono espanse, quindi quasi assumendo il ruolo della National Guard, e lui dice che su questo, secondo lui, è molto più responsabile la guerra in Iraq e la guerra in Afghanistan, perché parte, insomma, della costruzione poi anche operativa di quella guerra ha fatto sì che mezzi militari siano dati gratuitamente o comunque molto facilmente alle polizie locali, che quindi i mezzi militari passino direttamente alle polizie locali. Questo, secondo lui, ha avuto un effetto pratico più rilevante che non la rivolta del 92 in sé. Ok. Gli abbiamo chiesto qualcosa sul suo stile di scrittura. 18 capitoli per 18 personaggi, uno stile di scrittura che ci è piaciuto, e abbiamo chiesto se è azzardato vedere delle similitudini con la serie TV The Wire di David Simon e Ed Burns, che quindi è un misto tra fiction e giornalismo. Lui, a parte che si dice onorato di essere nella stessa frase di David Simon, precisa che però il suo romanzo è diverso dallo stile di una serie TV, e che è vero che ha usato tecniche giornalistiche, però rimane comunque pura fiction, anche se gli eventi sono tutti reali. Lui però quello che ha cercato di fare è di catturare voci e prospettive di quella rivolta nel modo più autentico che poteva, perché quello che dice è che il modo binario di immaginarsi la rivolta di Los Angeles è un modo troppo semplice: da una parte il gangster rap e dall'altra Hollywood, o da una parte i bianchi e dall'altra neri, e questo sarebbe incredibilmente riduttivo per una città in cui comunque ci sono tantissime culture diverse e si parla praticamente qualsiasi lingua. Ok, so I do, I'm just finishing up. So let me translate. Ok, quindi abbiamo chiesto se lui ha qualche anticipazione di qualche lavoro o progetto futuro a cui sta lavorando, e ci ha detto di sì, con un nostro piacere. Sta finendo di scrivere una bozza per un romanzo che si dovrà chiamare Faccia, e sarà ambientato a Los Angeles nel 2008, immediatamente prima del crollo delle azioni in borsa, e si tratta di un personaggio che lavora nell'FBI per casi di alto profilo legati alla droga, e il tutto sarà un thriller di una persona che sente dover fare dei cambiamenti, appunto questo personaggio che lavora con l'FBI e inizia a rubare da criminali. Okay, so thanks for the interview. It was really great for us, and we hope to hear you soon, and best wishes for your new book. Thank you. Have a nice day.